Nulla di troppo, da favole, dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Non c'è chi sappia al mondo con misura viver, per quanto io vedo. Provvidenza un certo ordine procura in ogni cosa, ma nel mal, nel bene, pochi sanno operar come conviene. Le spiche troppo in fiore, prezioso don di cerere, i gambi steriliscono succhiandone l'umore, e germogliando il verde inutile si perde del frutto il bello onore. Non fa minor tormento il troppo delle foglie di cui si adorna l'albero, e bene Dio ne toglie il troppo se permette il guasto dell'armento. Le pecore talora fanno soverchio danno, ma Dio rimedia al male, mandando un animale 3 o 4 volte l'anno che alcuna ne divora. Se tutte non le mangiano, non è che i lupi osservino i giorni di digiuno, ma Dio commette agli uomini di castigare alcuno. E l'uom del suo potere abusa in guerra e in pace, che in mezzo agli animali in ogni suo volere è l'uomo il più vorace. In ciò siamo colpevoli, grandi e piccini a un modo. Nulla di troppo, è un chiodo che tutti ribadiscono, ma tutti a un modo stesso siamo degni di processo. Fine della favola, Nulla di troppo. Questa registrazione è di dominio pubblico.